manifestazione, diciamo, è stata invitata tutti i disoccupati di Napoli e provincia, disoccupati che fanno capo al progetto Bros, che in questi giorni sono state sotto gli occhi di tutti dei mass media, solo per oggetti di criminalizzazione rispetto alle loro vertenze e rispetto alla rivendicazione che loro, che noi come progettisti Bros. Si evince chiaramente dalla volontà degli enti locali e degli enti nazionali di non dare risposta a questo bacino, presentando un piano di un lavoro che di concreto non ha nulla, non ha gambe, ma bensì ha solamente intenzione di far guadagnare altri soldi alle agenzie interinali, di non creare nuova occupazione, ma bensì è sotto gli occhi di tutti quello di far sì che questo bacino tenda a scomparire e deve essere criminalizzato per forza. Di tutto di noi, in poche parole, abbiamo fatto una controproposta agli enti locali e nazionali e abbiamo detto questi soldi che devono essere investiti con questo piano, investiti nella questione della green economy, create nuove aziende per la bonifica di territori, per la bonifica delle acque, per la raccolta differenziata, il riciclo e il riuso, create siti di compostaggio e create anche una filiera dove si può anche fare trattamento meccanico biologico dei rifiuti, così eliminiamo la questione degli inceneritori che non sono serviti a un cavolo e togliamo un po' l'emergenza dei rifiuti che a Napoli è sotto gli occhi di tutti. Stamattina siamo scesi, ma non sempre con questa rivendicazione qua che stiamo portando avanti. Abbiamo chiesto un incontro con il prefetto perché ci sembrava il caso che il prefetto si debba rispondere in questo momento a una giusta richiesta dei movimenti qua di lotta di Napoli. Il prefetto di tutta risposta non ci ha voluto incontrare, ci ha chiuso un'altra volta le porte e diciamo è salita un po' la tensione, ma nulla di che, diciamo. È stato amplificato diciamo, questo messaggio che è passato poi con i mass media locali. Sempre sulla questione perché vogliono solo criminalizzare, però non vogliono dire realmente le cose come stanno. Noi il sussidio non l'abbiamo mai chiesto. Quando ci sono state levate dei soldi è perché abbiamo avuto dei contratti con delle aziende, delle work experience l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto 18 ore lavorative e siamo stati pagati con un misero sussidio di 500 euro. Questa è stata un po' la cosa, diciamo, e la rivendicazione che portiamo avanti. Crediamo che così non si può risolvere il problema a Napoli della disoccupazione. Le porte delle istituzioni devono stare aperte, non possono essere chiuse perché non è casa loro, ma è bensì, diciamo, sono le istituzioni che devono rispondere politicamente a un problema che è oggettivo, è un'emergenza sociale. Se poi loro vogliono rispondere criminalizzando, militarizzando ancora di più i territori, troveranno una giusta risposta dei movimenti che sono da anni in piazza e che ribattono le scelte scellerate di questi governi, che stia dicendo destra e dicendo sinistra.